chiamate gli eroi, fanno loro lavori, 1.000 euro in più di ori, io scrivo per loro 1.000.000 di odi di onori, ma con polmoni e polmonite di cori, eppure anche loro, loro signori, frode di stato in corridoi di ambulatori, e molti medici e volontari operatori, involontari, in magna magna, etichettati come manipolatori, comandati da poteri superiori occulti, tutti sono casi, chiamati tutti Covid, pochi quelli peraltro curati, ammalati, morte inflazionate, si muore oggi in maniera scontata e generalizzata di Covid inflazionati, voci di fonti di pompe funebri che sottolineano allineamento di morte. Molti medici e grandi infermieri muoiono come eroi, ma non chiamiamo gli eroi, fanno lavori ma io li ricorderei di ori e onori, solo che taluni sono viscidi avvoltoi infiltrati tra loro. Vi sono grandi mangiatori di frodi, come sempre in Italia, come sempre. Mentre c'è chi di questi angeli in corsie disperate contraggono un virus onnipresente, sia negli ospedali che nelle vie di orrori, e i nostri angeli perdono ali mentre il magna magna e corruzione sotto sotto continua in errori. Angeli involontariamente associati a controlli di frodi, ma non tutti sono illeciti, ma infangati genericamente come sempre, etichettati a soldi sporchi. Molti medici e grandi infermieri muoiono come eroi, ma non chiamiamoli eroi, fanno loro lavori, ma io li ricoprirei di ori e onori, solo che taluni sono viscidi avvoltoi, infiltrati tra loro vi sono grandi mangiatori di fondi come sempre, mentre c'è chi di questi angeli in corsie disperate contraggono un virus onnipresente, sia negli ospedali che nelle vie di orrori, e i nostri angeli perdono ali mentre il mangia mangia e corruzione sotto sotto continua in errori. Angeli involontariamente associati a controlli di fondi, ma non tutti sono lerci, ma infangati genericamente come sempre, etichettati a soldi sporchi. Non chiamate gli eroi, fanno loro lavori, 1.000 euro in più di ori, io scrivo per loro 1.000.000 di odi e di onori, ma con polmoni e polmonite di cori, eppure anche loro, lor signori, è errore e frode di stato in corridoi di ambulatori, e molti medici e volontari operatori involontari in magna magna, etichettati come manipolatori, comandati da poteri superiori occulti, tutti sono casi, chiamati tutti Covid, pochi quelli peraltro curati per altre malattie, generalizzati, ammalati, morte inflazionate, si muore oggi in maniera scontata e generalizzata.